fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Resto Radio Convento, la web radio del convento di Donato del Garda, ovviamente lo spazio per dare voce ai nostri protagonisti, ai nostri festeggiati, chiunque siano, sposi, spose, laureati, laureandi, chi festeggia un compleanno, insomma ogni occasione è buona e bella per fare festa. E abbiamo con noi uno dei protagonisti della serata, andiamo a presentarlo e andiamo a chiacchierare un po' con lui. Come ti chiami? Alex. Oh Alex, benvenuto, da dove vieni? San Giovanni del Rione, in provincia di Verona. Provincia di Verona, che non so perché, però ha un po', magari una casualità, magari lo confermerai tu. Tantissimi paesi della provincia di Verona hanno nomi lunghissimi. Sì. E può essere? Sì, è un caso, no, non è un caso. No, no, è vero. Perché vero. Comunque cos'è San Giovanni? Ilarione. Ilarione, che è già lungo, e poi c'è anche Lupatoto, mi pare. Sì, c'è anche Lupatoto. Però Ilarione non ha niente a che fare. Sì, no, però nel senso, sono tantissimi nomi lunghi di paesi. Esatto. Insomma, esatto. È una constatazione così. Casuale, ma forse non troppo. Allora, cosa stai festeggiando con noi questa sera? Sto festeggiando l'addio al celibato. Oh, bene, bene, benissimo. E chi sarà la futura fortunata che ti sposerà? Giorgia Marcazzan. Ah, anche cognome giusto, perché vuole essere via Rossetti al Motto. Sì, vuole essere preciso. Già Giorgia è un nome particolare che non si vede spesso, però lui voleva essere, ecco, più preciso di tutti. Esatto. Ok, questi sono i tuoi amici, immagino. Certamente, che mi hanno accompagnato in questa bellissima serata. Ok, bene. In questo bellissimo posto. Sì, ti stiamo facendo da badante, però, Alex. ci sta. In questo bellissimo posto e ci stiamo divertendo tantissimo. Oh, bene, bene. L'importante è questo. Vuoi mandargli un messaggio? Vuoi dirgli qualcosa? Mando un messaggio alla fidanzata, le dico che voglio sposare veramente tanto e che le voglio un mondo di bene e che la amo tanto. No, bene. No, volevo solo dire che... Sì, no, di voi si è già dimenticato. Non grazie, non grazie Alex, non i tuoi amici vengono dopo. Dai, ringrazio anche gli amici. Così, allora, proprio perché mi rimane del tempo, mi rimane quanto... Ricordo tutti quelli all'ascolto che comunque ha salutato l'amorosa che ha letto da due ore, non gli amici che è qua a fianco. Grazie mille Alex, grazie mille. Dai, mi hanno accompagnato in tutta questa serata e li ringrazio tantissimo per il divertimento che mi hanno fatto passare. Bene, cioè, grazie, alla fine grazie mille, l'abbiamo un po' grazie. Dovuto tirare fuori di bocca. Ti vogliamo bene anche noi Alex. È ricambiato. Bene, poi non sono gli unici ragazzi che abbiamo qui, perché vedo che ci sono anche alcuni qui fuori che ti stanno aspettando. Purtroppo il posto è piccolino, non ci stavamo tutti, quindi estendiamo in modo, come dire, indiretto anche il saluto, immagino, e il ringraziamento anche a loro, che sembrano un po' tipo a metà tra un gruppo di gente che ti vuole menare appena esci, perché sono tutti proprio lì fermi davanti, no? Sai quando... Mi auguro di no. No, però è proprio la posa, io stavo parlando della postura. Fisica, no? A metà tra quelli che ti... Esatto. Io spero che non mi vogliono menare, tra quelli che ti vogliono, vedi che già lui fa dei segni d'amore. No. Tra l'altro è piccolino, quindi no, segni no. D'amore così. No, esatto, a metà tra e a metà gente che sta, e quelli che guardano gli acquari, quelle cose lì. E no, bello però. Tra l'altro, nota di colore, vedo che hanno più o meno tutti un papillon sul rosso, certo, tra il rosso, esatto, e il bordeaux. Per riconoscerli, chiaramente. C'è un motivo, e lui ha quello blu. Il motivo è il colore del matrimonio. Ah, il tema è rosso. Il tema è bordeaux. Ah, bordeaux. Bello. Sta andando forte, tra l'altro, come colore. Anche i vestiti da sposa si stanno moltiplicando. Penso che lui si è anche messo la camicia per essere perfettamente in tono di tutti i rossi possibili e immaginabili. Esatto. Cosa hai detto? Non mi possono lasciare fuori. Esatto. Se c'è qualcuno che devo lasciare fuori, non sono io. È quello che conta. E come mai il tema bordeaux ha un motivo? E bordeaux perché l'ha scelto Giorgia, uh-huh, la mia futura moglie, e ha un colore che a lei piace. Ah, ok, non ha nessun legame particolare. Beh, tu hai accettato. Tu hai accettato perché davvero uomo medio, che ti frega del colore del tema del matrimonio. No? E voilà, fai tu, a me va benissimo. Però diciamo che in fondo dici, vabbè. Quando arrivi a questo punto devi dare ragione anche a poi. No, però no, non era chiaramente una critica, però, cioè, come dire, è quasi sociologico il fatto che ci sono dei dettagli che a noi interessano e dei dettagli che ti dicono ti escono proprio direttamente dall'altro orecchio, e poi arrivi il giorno del matrimonio e dici: oh Giorgia, bello sto colore, comunque bello, ma ricordami, bellissimo, ricordami perché l'abbiamo scelto. E lì scoppia il finimondo. Perché lei, evitiamo lei questo parla, discorso, diceva, Alex, un anno fa ti ricordi? Gentilmente evitiamo questo discorso. Te ne ho parlato per un'ora intera del colore, tu mi hai detto sì, sì, bellissimo, ma dov'eri, cosa stai pensando? Guarda che però mi introduco un attimo, siccome non ha visto i video, non sappiamo se ti sposi, gli faremo vedere i video e poi deciderà. C'è qualcosa di compromettente? Abbiamo delle chicchettine da tirar fuori, giusto il venerdì prima per... Proprio guarda, ho degli amici simpaticissimi. Sì, soprattutto, esatto, il venerdì prima, quando non c'è nulla di preparato e di definito, quando è tipo tutto pagato, tutto stabilito, è comodo farsi. È comodo far saltare. Vedi che adesso è più sincero il sentimento d'affetto è più sincero di prima, quello sì. Bene, allora attendiamo con ansia questo matrimonio in tema Bordeaux. E se ci sarà a questo punto, perché tutto sta... Sì, il ci sarà, 4 ci maggio sarà, 2019, ci sarà. Tutti a San Giovanni Larione. Ci sarà. Sembrava abbastanza convinto sul fatto che ha dei video importanti. Sì. No, ci sarà comunque, bene, ci fa piacere comunque tu sia fiducioso. E allora, sarà anche una grande festa. Sì, ne siamo certi. Grazie mille allora Alex, in bocca al lupo. E insomma, buon divertimento anche per tutto, perché sarà anche sicuramente un periodo e un giorno di festa. Grazie a pieno, come dicevi tu. Grazie ragazzi per avercelo portato qui, grazie, e per essere grazie, stati grazie, con noi. Buona serata a voi, ciao. Ciao. Siamo offline.